Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, si chiama RoboGen ed è un'officina virtuale, in realtà qualcosa di più raffinato lo vedremo, un'officina che permette di progettare, testare virtualmente e in seguito anche realizzare fisicamente dei robot usando componenti e materiali low cost, come per esempio Arduino, che è un hardware open source. RoboGen non è un gioco, anche se devo dire non sarebbe sorprendente che qualche ragazzino lo considerasse tale, ma è uno strumento di ricerca messo a punto al Politecnico di Losanna dal Laboratorio of Intelligent System diretto da Dario Floriano, che è in linea con noi per parlarcene. Buonasera Floriano. Buonasera. Senta, allora partiamo così dalle funzioni di base di questo vostro RoboGen. Intanto progettazione, no? Si parte come da dei mattoncini di base, come una specie di Lego robotico. Esatto, RoboGen permette in simulazione di costruire dei robot partendo da tanti elementi di base. Ciascuno di questi elementi, alla differenza dei Lego per esempio, possono variare in diverse dimensioni, possono essere più o meno grandi, più o meno allungati, possono avere vari tipi di sensori e di motori. E l'idea di base è appunto, una volta che abbiamo questa libreria di elementi di base, poterli assemblare assieme. Sempre in questo mondo virtuale, cioè lo costruite sempre virtuale. Con un software, quindi? Mm-hmm. Esatto, quindi c'è un sistema di progettazione intero che permette di scegliere i tipi di sensori, i tipi di attuatori, i tipi di componenti che vanno a formare il corpo di questo robot, e quindi questa grande varietà permette di costruire dei robot articolati con delle forme estremamente diverse, un po' come i sistemi biologici in natura, diciamo. Quindi questo robot viene progettato, viene poi testato, è possibile testarlo virtualmente, farlo muovere, vedere come si comporta, giusto, sempre in ambito virtuale, esatto. E infine può essere anche rapidamente realizzato. Esatto, allora abbiamo la parte di simulazione del robot, quindi vogliamo vedere effettivamente come si comporta una volta che l'abbiamo assemblato secondo il nostro progetto, e per questo usiamo delle librerie di simulazione che diciamo colgono la legge della fisica, come la gravità, le accelerazioni, gli attriti, in modo che sia realistico quello che certo. Vediamo sul computer. E poi la cosa molto interessante è anche che una volta che siamo soddisfatti col comportamento del nostro robot, possiamo premere un bottone e, collegandosi a una stampante a tre dimensioni, stampare tutti i vari elementi, assemblarli assieme a mano come escono dalla stampante, prendere tutti questi sensori e montarli a questo punto, no? Montarli sulle parti. Come un piccolo, esatto, come un piccolo kit, come questi hobby kit. Perfetto, che si possono comprare nei quattro giocatori. Perfetto. E quindi alla fine uno si trova un robot fisico, poi può fare delle interazioni, per cui se c'è qualcosa che non va, torna a progettarlo, lo ristampa e così via. Esatto. E queste, in realtà, che sembra già sorprendente e straordinario, sono in realtà le funzioni di base di questo software, che ha in realtà delle possibilità molto raffinate. Cioè voi siete in grado in pratica di ricreare una specie di universo parallelo con un certo tipo di ambiente popolato da questi robot virtuali che possono essere progettati. Una specie esatto, di second life per robot, mettiamola così. Sì, l'idea in realtà è di automatizzare l'intero processo, ovvero dare alla fase di progettazione del robot, la scelta dei sensori, degli attuatori, della forma, dei componenti, a un algoritmo di intelligenza artificiale molto avanzato che utilizza quello che noi chiamiamo l'evoluzione artificiale, ovvero sono degli algoritmi che sembrano anche algoritmi genetici, sì, che permettono di descrivere ciascun robot con un codice genetico artificiale che descrive quali sono i componenti del suo corpo, com'è il suo sistema di controllo e come tutti questi interagiscono fra di loro. Quindi noi con questo software che combina l'evoluzione artificiale con dei sistemi di controllo anche questi avanzati, che sono delle reti neurali artificiali, questo software permette di creare una popolazione virtuale di robot che sono tutti diversi fra di loro. E ciascuno di questi robot il codice genetico viene letto dal computer, viene tradotto in componenti che corrispondono nel corpo, in sensori certo. Che corrispondono a quello che legge. Cioè simulando lo sviluppo corporeo, diciamo così, esatto. Come avviene in natura. Mm-hmm. Viene creato un robot corrispondente a ciascun individuo, viene messo nel software che usa le librerie di simulazione fisico, e tutto quello che lo sperimentatore o l'utilizzatore del software deve fare è stabilire un criterio di sopravvivenza, che può essere per esempio quanto velocemente il robot riesce a spostarsi. Poi semplicemente l'utilizzatore definisce un ambiente che può essere più o meno piatto, con delle scale, e quello che l'algoritmo fa è che testa ciascuno di questi individui in questa popolazione virtuale e fa riprodurre con delle piccole mutazioni solamente gli individui certo. migliori. Quindi sostanzialmente quello che voi simulate è l'evoluzione di un ecosistema virtuale abitato da dei robot, anche questi virtuali, che, ai quali poi si può anche dare vita. Ecco, è abbastanza potente come idea, una sorta di democraticizzazione della robotica, non so come dire, diventa in qualche modo più a portata di tutti. Esatto, e io penso, ed è questo il motivo che mi ha spinto a creare questo software che mette assieme tutti questi elementi, io penso che non solo questa democratizzazione diventerà una cosa concreta, ma permetterà di far avanzare veramente la ricerca, di trovare applicazioni, perché quando tanta gente che comincia a usare questi tipi di software lo può applicare a tantissimi campi, che non sono solo la robotica, ma anche la progettazione di edifici oppure la progettazione di altri sistemi fisici, come dei sistemi chimici, ad esempio. Oggi effettivamente un ragazzo, una ragazza che ha fatto una scuola, diciamo, sì, superiore, con un po' di basi, ecco, per l'amor di Dio, un po' di base, già oggi riesce a utilizzare il software com'è. E lo scopo in futuro è di renderlo ancora più, democratizzarlo ancora di più, renderlo ancora più facile da utilizzare in modo che veramente sia accessibile a tutti. Grazie, grazie Dario Floreano. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.